lucette si sono spente, che stanotte fatto le 5, appiccicato a quel computer, come si fa ad essere sempre così razionale, a non riuscire mai a lasciarti andare, a dire tardi, torniamo a casa, dai, fermiamoci qua. E le tue storie, solite storie, il tuo lavoro e poi il mio amore, la tua partita e dopo la mia vita. Sempre di corsa, sempre lo stesso, dimmi adesso se ti pare giusto che io resti sola ad aspettarti qua. Mi accendo un'altra sigaretta e fumo. Le mie ferite fanno ancora male. Fumo, oh, fumo. E questa sigaretta ancora non si è spenta. Le sigarette le abbiamo fumate, tra quei discorsi e quelle frasi fatte per riportare dopo i casini un po' di relax. Non ti accontenti neanche di un mio gesto, di starti accanto e a volte a tempo perso, senza capire i miei bisogni, le mie necessità. Adesso basta, tagliamo corto, voglio soltanto fare quel che sento, riscoprire la mia femminilità. Inspira.